I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Sebastiano Barisoni. Come si tengono assieme le previsioni un po' più positive del previsto, diffuse ieri dalla Commissione Europea sulla crescita dell'area euro, con il brusco calo che hanno avuto le borse e l'aumento, nel caso dell'Italia, anche dello spread? Beh, semplicemente la Commissione Europea ieri ha sì previsto una crescita migliore delle attese, uno 0,2%, ma è stata invece molto prudente sull'andamento della disoccupazione, scenderà e solo leggermente nel 2016, ma ancor più ha gettato una doccia fredda sulle prospettive per la Grecia. Quest'anno il calo del PIL sarà di 2 punti percentuali rispetto alle attese, quindi da un 2,5 a uno 0,5%. Sono questi motivi sufficienti per far spaventare le borse? No, in realtà la paura è un'altra. Si chiama ancora una volta Grecia e si chiama ancora una volta il fronte contrapposto, che a questo punto vede da un lato i paletti messi dal Fondo Monetario Internazionale, che non vuole rinunciare a alcune delle riforme chieste alla Grecia, dall'altro i paletti messi dalla Commissione Europea, che a sua volta non vuole rinunciare ad alcune delle richieste avanzate alla Grecia. Risultato? Si balla pericolosamente sul Titanic. Ecco, pur senza evocare paragoni impropri, a noi sembra che in questo momento tutto il balletto su quello che dovrebbe fare o non dovrebbe fare la Grecia, su quali posizioni mantenere più che altro molte volte per motivi ideologici più che economico-finanziari, non tenga presente il vero convitato di pietra, ossia la terra sconosciuta in cui ci avventureremmo se la Grecia dovesse uscire dall'euro. Una terra sconosciuta che invece fa molto paura ai mercati. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alessandro Plateroti. Una volta in borsa si diceva che il ribasso era il territorio dell'orso. Adesso, con la questione greca che si trascina ormai da 5 anni, chissà, magari si dirà che il ribasso è figlio del branzino. Ma scherzi a parte, la questione continua a tenere banco. Salvare Atene, non salvare Atene, quali concessioni chiedere e che cosa cedere. L'Europa continua a essere divisa, confusa. Sembra quasi che l'intenzione generale sia quella di trascinare il caso greco il più a lungo possibile, quasi a non volerlo risolvere. Non è un caso che se la BCE da un lato continua a minacciare la Grecia di accettare le condizioni dell'Unione Europea, del Fondo Monetario e della BCE, dall'altra parte continua ad elargire, quantomeno a finanziare le banche greche e quello che è, diciamo così, un fabbisogno di liquidità che diventa sempre più stretto. Ma c'è anche dei fatti curiosi che avvengono dietro le quinte. In questi giorni si parla sempre più spesso di una possibile Grexit, cioè l'uscita della Grecia dall'euro, con la conseguenza di una corsa dei risparmiatori ai bancomat per prelevare soldi e fuggire. Ebbene, curiosamente, l'unico paese d'Europa che oggi non riesce a dare ai propri clienti il bancomat è proprio la Germania. Lo sciopero dei trasportatori, in particolare dei portavalori, ha infatti privato i bancomat tedeschi delle banconote. I tedeschi tentano di prelevare e non esce fuori niente, come dire, un assaggio di una crisi greca. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.